si inizia a scrivere. Prima cosa proibita: non si scrivono libri, saggi, eccetera, per scoprire con il lettore come va a finire. Non si fa così. Allora, dopo che avrete fatto questa bella raccolta, ve la vedrete tutta quanta insieme, vedrete le citazioni che per esempio avrete raccolto, che vi hanno colpiti, o fate una fotocopia, o proprio già cominciate a digitare, dovete a un certo punto copiarlo. Bene, quando vedrete tutto il materiale, comincerete a digerire l'idea e comincerete a sistematizzare la roba. Fondamentale è l'indice. Ogni libro comincia dall'indice. L'indice rigorosamente diviso, prima in capitoli. L'introduzione è sempre la solita, sostanzialmente. Questo è l'argomento, su questo argomento si è scritto questo, questo è lo stato dell'arte, noi vogliamo verificare queste cose, proponiamo un'altra ipotesi interpretativa, quello che è. Dopodiché, i capitoli. Fatti i capitoli, si passa ad articolare ogni capitolo in paragrafi. Fatti i paragrafi, si passa a fare la scaletta di paragrafo. La scaletta, grosso modo, dovete arrivare al punto che ogni punto della vostra scaletta coincida grosso modo con una pagina e mezza del lavoro. Perché questo? Intanto perché man mano che lo sviluppate vedete quante volte lo rifate l'indice. Perché all'inizio avete pensato un capitolo, no? State facendo un indice sulla crisi del 2008-2012 e avete deciso di fare un capitolo sulla preistoria di questa crisi, cioè, no? Poi man mano che magari la preistoria avete deciso di farla dal 1971 in poi, però poi man mano che lo stendete vi accorgete che sono una serie di rinvii precedenti, o che per esempio invece un argomento va scisso, perché ricordatevi che c'è sempre un doppio binario su cui scriviamo, che è il binario cronologico e il binario tematico, cioè in cui poi devi spiegare le cose. Sì, d'accordo, la modernità è questo, eccetera, eccetera, però poi quando spieghi che cos'è lo stato di diritto, devi pur dire lo stato di diritto è così e funziona colà, cioè devi pure fare a un certo punto una chiosa di questo tipo. E magari man mano che lo scrivi ti accorgi che in realtà le idee non sono una, sono due che vanno separate e distinte, perché stai parlando dello Stato moderno, e però lo Stato moderno, per esempio, è lo Stato di diritto, però è anche lo Stato rappresentativo ed è anche lo Stato burocratico razionale, che sono tre aspetti connessi ma distinti, perché per esempio il nazismo ha uno Stato burocratico razionale, ma non è certamente uno Stato di diritto, uno Stato rappresentativo e così via. E allora, man mano che voi approfondite la materia, la frantumate, vi accorgete che lo schema base va ritoccato in continuazione. Poi magari mentre stendete ulteriori variazioni le apporterete, però l'importante è che quando partite ci avete il binario dritto davanti. Regole fondamentali: non si inizia un libro se non si sa che cosa si vuole dimostrare. Secondo, non si dice con 10 parole quello che può essere detto con 7 o anche semplicemente con 9. Terzo, un libro è un ragionamento filato. Può esserci l'esigenza di qualche piccola, diciamo, diversione, qualche piccola parentesi, sì, però non esagerando. Se la materia comincia a crescere troppo, o si fa un capitolo ad hoc se la ritenete indispensabile ai fini del lavoro che state facendo, o se non è indispensabile, va bene, ci farete un altro articolo, ci farete un'altra cosa. Ecco, per esempio, questo è il vizio che aveva il buon Filippo Gaia, buon'anima, che scrivendo Il secolo corto, che è una sua idea di come è andata la guerra fredda, il conflitto nucleare, il confronto nucleare, eccetera, eccetera, a un certo punto attacca una pippa su Gehlen, l'organizzazione Gehlen, eccetera, eccetera, che diventa un libro nel libro. Fai un'altra cosa, cioè non si fa un libro dentro un altro libro. Il libro, l'articolo, cioè, deve essere un ragionamento filato. Sì, è concesso qualche piccola diversione, oppure per esempio ti viene una battuta, una cosa divertente, un episodio che non è proprio centralissimo, però è spiritoso, è divertente, eccetera. Vabbè, dai, su, 7 righe. Quando scrissi la storia dell'ufficio affari riservati, beccai un episodio che non era poi proprio così indispensabile ai fini del libro. Che l'ufficio affari riservati tenta di ricattare il suo ministro Tambroni perché Tambroni si era fatto la comare, che era la notissima attrice all'epoca, ambitissima, molto bella, Silvia Coscina. Ed erano andati dal portiere a chiedere notizie, eccetera. E il ministro si era incazzato perché diceva: no, Silvia Coscina non si tocca. E quindi, vabbè, è divertente questa cosa del ministro democristiano con Silvia Coscina, che è un nome per molti italiani, non della vostra generazione, ben inteso, ma di altre generazioni. 5 righe ce li metti ogni tanto, il resto deve essere una cosa che fila. E possibilmente tenetevi sempre avari con le parole e gli spazi, perché se lo dovete stampare l'editore, più il libro è breve e asciutto, meno costa, più è facile piazzarlo. Perché se il libro è asciutto è più facile che venga letto. Perché per 10.000 ragioni. Questo è un difetto che io ho, che è quello di non stare mai nei limiti che mi propongo, perché poi la materia mi cresce regolarmente tra le mani mentre lavoro, e vabbè. Però è sbagliato. I libri devono essere il più possibile una cosa compatta, asciutta, e anche i saggi, il lettore ve ne sarà grato. Quindi massima asciuttezza, niente divagazioni, se non a titolo del tutto eccezionale. Naturalmente ci deve essere tutto quello che è necessario, ecco, non il superfluo, ma il necessario, sì. Dopodiché veniamo a come si scrive proprio materialmente. Allora, il consiglio che posso dare è questo: il concetto di eleganza. Il concetto di eleganza in matematica o in fisica significa una dimostrazione è tanto più elegante quanti meno passaggi richiede. Perché? Perché quanto più è intuitivo, quanto è più immediatamente percepibile per chi ti legge, per cui la vede la cosa e dice: beh, cazzo, questo c'ha ragione. Se lo fai in 3 passaggi è molto più immediato che se non lo fai in 7. Più passaggi. Enzia non sunt multiplicandas praeter necessitatem. Più passaggi ci metti, più ci sono probabilità di dissenso. Ora, naturalmente, questo non è un invito a saltare i passaggi e a fare cose alla Cucchiarelli un po' acrobatiche, cioè, no, niente tarzanismi storiografici, questo no. Però se riuscite a trovare un ragionamento più snello, più sciolto, con meno passaggi, più rapido, è meglio. Questo si riflette anche nel modo di scrivere. Allora, in linea di massima, la base, in questo io sono dell'idea che ci sono dei modelli che voi dovete studiare per non fare mai come fanno loro. Prendiamo il caso di Renzo De Felice, storico del quale io ho massima stima e considerazione, tanto di cappello per Renzo De Felice. Beh, personaggio un po' strano perché in realtà lui è uno che aveva proprio un fastidio fisico per le questioni di carattere metodologico, però in realtà poi si è inventato un metodo diverso nei fatti. Se gli chiedevi perché non te lo sapeva spiegare, però lui istintivamente solo che scriveva come un cane, come un vero cane. Non si può scrivere un libro di 1200 pagine in capitolo unico, tre paragrafi. Paragrafi di 400 pagine? È demenziale una cosa del genere. Periodi di 21 righe senza un punto, che se li devi leggere ti viene l'asma? Allora, assolutamente no. Questo è perché questa logica torrenziale, per cui da un discorso ne nasce un altro, ne nasce un altro, ne nasce un altro, facilmente ti porta fuori strada e ti fa fare l'errore del libro in cui c'è tutto e non c'è niente perché ti perdi un po' per strada. Ora De Felice era un genio e lo sapeva fare, però lo stesso, secondo me, un po' più di ordine avrebbe giovato moltissimo alla sua opera. Un po' più di ordine, un po' più di pulizia formale. Ecco, il primo requisito è la pulizia formale. Strettamente connesso alla pulizia formale, la chiarezza. Un libro, un saggio, un articolo non sono scritti bene se non sono chiari. Sapelli ne è a corrente di questa cosa. E cercate di informarlo. Ma nessuno di questi punti direi. La chiarezza è, qui Non devo dire scremare una nulla. cosa autobiografica, eh? Io devo questa impostazione di metodo ai salesiani. Quando sono stato ragazzo nell'Istituto Salesiano, la prima cosa che mi spiegavano era l'esigenza che gli veniva direttamente da Don Bosco, perché Don Bosco, che ha scritto una notevole quantità di roba, anche le sue cose pedagogiche, eccetera, eccetera, si faceva un prediche, cioè c'era un punto d'onore prima di tutto che fossero comprensibili all'uditorio a cui si rivolgeva. Quindi la prima cosa è la chiarezza. Chiarezza che cosa significa? Uno, perché se un'idea non sapete scriverla chiara, vuol dire non ce l'avete chiara in testa voi. Si è chiari solo se un'idea è chiara e viceversa, se non sei chiaro quando scrivi, vuol dire che non è che ce l'abbia proprio molto chiaro il problema in testa. Allora, essere chiari che significa? Primo, usare le parole nel modo più preciso possibile a taglio. Secondo, il periodare deve essere pulito, lineare. Ridurre al minimo indispensabile le parentetiche oppositive, cioè tutti quei periodi. Potremmo ammettere, se non che nel caso in cui l'eccezione, che prevede un'ulteriore eccezione a se stessa, no, spezzare mai periodi troppo lunghi. Se bisogna fare, la regola è mai periodi eccedenti le 7 righe. Qualche volta in un libro è concesso fare 3 periodi che arrivino alle 10 righe, non più di 2 o 3 volte. Il resto periodi fra le 5 e le 7 righe. E se sono di 3, qualche volta, meglio ancora. Ora, tenete presente che c'è una cosa che distingue, dammi un bicchiere, c'è una cosa che distingue la letteratura dalla saggistica, che non è il fatto che il saggista deve scrivere coi piedi e il letterato deve scrivere in modo alato, non è quello. Vedete, nel romanzo, nella letteratura, l'ambiguità è un valore aggiuntivo. La possibilità che un romanzo abbia più chiavi di lettura è una qualità del romanzo, svela più facce della cultura di un tempo. Nella saggistica scientifica, l'ambiguità è un disvalore, è un fatto negativo. La lettura non deve sciogliere le ambiguità. Quindi, prima cosa, quindi attenzione all'uso accorto delle parole. La prima fonte di ambiguità sta nell'uso improprio dei termini o di termini approssimativi dove ce ne vorrebbero di precisi. Se stai parlando, che so, della speculazione finanziaria e dei fondi più aggressivi, devi usare il titolo hedge fund, perché ti stai riferendo a quello. Non puoi uscirtene con un generico riferimento alle istituzioni meno caute nell'investimento finanziario. Sono gli hedge fund, punto. Quindi chiamare le cose col loro nome, privilegiare i termini anche specialistici, salvo dandone una spiegazione. Quello è giusto, perché chi ti legge deve capirlo. Quindi, ma non è che il problema si risolve scansando il termine specialistico per parlare, parla come mangi al mercato. No. Un lavoro scientifico non può essere espresso nella lingua del mercato. Perché se sto spiegando come cazzo si fa un'operazione e che riguarda quel particolare tratto della vena aorta o della... non posso dire, ecco, la vena che più o meno sta all'altezza del torace, che no, quella ha un nome, la safena, quella si chiama safena. Poi lo spieghi. Allora, il termine specialistico non va evitato, va spiegato, ma non va scansato. Il termine in generale deve essere la prima qualità per ottenere uno scritto chiaro, è la proprietà di linguaggio. Ogni cosa deve avere il massimo di intelligibilità e di precisione. Poi vedremo un altro aspetto. Quindi si scrive sempre in questa maniera. Hanno scoperto recentemente una cosa molto importante da usare, si chiama dizionario della lingua italiana. Va tenuto sul tavolo, va consultato anche per internet, un pochino, però sai, il thesaurus, cioè, qualche volta ti può aiutare. E quindi ti dà una certa flessibilità di termini, eccetera. Ma comunque il vocabolario va usato sempre, perché c'è la volta in cui un particolare oggetto va precisato, non può essere generico. E quindi la proprietà di linguaggio è assolutamente irrinunciabile, non è un optional. Uno scritto di natura scientifica è fondamentale. La costruzione, a proposito, come usare poi le cose, massima varizia con aggettivi ed avverbi. Aggettivi e avverbi vanno usati quando hanno una caratteristica esplicativa. Fabio che sedeva quella sera con la sua maglietta verde, ce ne frega niente, né della maglietta né del fatto che fosse verde, no? Se c'è un motivo per cui la maglietta di Fabio è oggetto della nostra attenzione, magari non è importante il colore. Allora, tu, sulla maglietta di Fabio si leggeva questa scritta. La maglietta verde di Fabio non aggiunge niente, perché la nostra attenzione è sulla scritta. Che cazzo sta scritto? Sempre per sempre dalla stessa parte mi troverai. Gli ha regalato un mio amico che fa zambando. Vabbè, andiamo là. È una canzone di Gregorio. Ecco, allora, se noi vogliamo dire il fatto che poi fosse a colori verde, che fosse vecchia, che fosse nuova, che fosse costosa, che fosse ce ne fotte niente. Quindi, avverbi e aggettivi usati col contagocce. Quando servono, non stiamo descrivendo. Ecco, in un lavoro di letteratura magari tu devi dare anche il colore dell'ambiente, la descrizione, la cosa. In un saggio questo è meno importante, qualche volta sì, perché per esempio se devi descrivere un personaggio, magari anche il modo di pettinarsi può essere interessante perché ti rivela un aspetto del carattere. Se lo devi far vedere in qualche modo al tuo lettore, qualche pennellata ci sta bene, senza esagerare, giusto qualche colpo di pennello, non di più. Ma in generale non è indispensabile tutto questo, e anzi fa perdere tempo. Costruzione del periodo fondamentale. Abbiamo detto che la costruzione del periodo è da privilegiare prima di tutto la brevità e la successione logica dei periodi. Per fare questo, lo schema base rimane sempre lo stesso: soggetto, predicato verbale, complemento oggetto. Poi ovviamente ci saranno in qualche caso altri complementi, in qualche caso occorrerà aprire una parentetica o fare un incidentale. Sicuramente non è che sono fuori legge queste cose, vanno usate con parsimonia. Attenzione a una cosa: come mi disse il compagno Salvini, stia attento, dottor Giannulli, a scrivere la perizia. La sua perizia finirà in mano agli analfabeti. Scrivano in modo chiaro. Poi mi telefona un giorno e fa: professor Giannulli, che mi ha combinato? Che fa? E le avevo detto, scriva facile, che la perizia finisce in mano agli analfabeti. E che ha fatto? Non so. La perizia ha letto la dottoressa Pradella. In una nota io avevo messo ibidem. La Pradella, convinta che fosse il nome di copertura di una fonte del Ministero dell'Interno, aveva ordinato al nucleo di polizia giudiziaria di trovargli ibidem. No, ma è vera questa cosa. No, giuro. Che imbarazzo. No, è una cosa assurda. Allora, vabbè, forse ibidem. Ma che cazzo? Vabbè, potete usarlo, Ivi. Magari da allora uso di più Ivi, che è già un po' più, ci arriva un po' di più che Ivi è nello stesso posto. Capace che capisce, pur la Pradella capisce. Da allora io non uso più Ibidem, giuro. E questa non è neanche teoricamente analfabeta a cui do la prima. Beh no, magistrato. Ah, sì, beh. Ah, questo è per darvi l'idea, quindi attenzione, Una volta il mio amico, il mio studente privato almerino, buon uomo, che io picchiavo regolarmente, professore, non ho capito questa pagina. Che cos'è da capire? Non riuscivo a capire cosa non aveva capito. Alla fine lo capisco. Quello era abituato a soggetto, complemento, predicato verbale e complemento oggetto. Una frase aveva invertito, il complemento oggetto stava prima del soggetto e il verbo stava in mezzo. Quello non capiva. Allora io gli ordinai di fare l'analisi grammaticale e logica del periodo. Siccome ha citato il giurista Ferdinando Lessé, giunto a Ferdinando lui mi disse gerundio. Vabbè, però no, non tutti sono come Almerino, però attenzione perché è un genio. La base sia... Questo non significa che dovete scrivere sempre a livello di sillabario, Però attenzione, mantenete una certa pulizia, un certo stile immediatamente intelligibile, cioè l'agudezza del complemento oggetto prima del verbo, per esempio, si può fare qualche volta perché consente la fusione di due periodi, qualche altra volta perché consente di accorciare un po' il discorso accorpando delle cose, e qualche volta perché magari tira il riflettore, la nostra attenzione, sul complemento oggetto, che è quello che noi vogliamo in qualche modo sottolineare. Si può fare, però che vada fatto quando ha un senso, quando questo c'è una certa... Diversamente, mantenere una scrittura piana non è mai sbagliato. Adesso verremo alle prodezze stilistiche che non sono inutili, Però attenzione, se le sai usare, lo fai. Se non le sai usare, meglio che ti tieni su un livello. Allora, le cose proprio da evitare come pestilenza, frasi lunghe, abuso di tecnicismi. Allora, il tecnicismo va usato quando è necessario, quando non è necessario no. Quando viene usato va spiegato. Frasi lunghe vanno evitate, eccessi di anglicismi, francesismi, cioè ogni tanto viva Dio ci può stare. Io amo più i francesismi degli anglismi. Allora, per esempio, c'è un'espressione francese, blasé, per dire un'aria annoiata, cioè che non è esattamente traducibile. E per una volta ci può anche stare il fatto che ci metti una cosa del genere. Una parola inglese ogni sette in italiano, chi prosa da centro sociale, no, anche perché ci sono espressioni italiane, perché devi dire uniriot o cazzate di questo genere? Uniriot. Sì, no, proprio esatto. Li guardi perché? Dove l'inglesismo si trasforma anche in italiano, socializzato con la R. Esatto. Esatto. In particolare cantieria. Diciamo un corteo sauvage. Allora, evitiamo queste manie. Global warming information, sì, ecco, point. Queste cazzate, le info, no, perché c'è queste cose. Cosa pensi del fatto di scrivere asterisco in fondo agli aggettivi di modo da tipo ciao a tutto, tut, asterisco per tutto. Perché così sei sessualmente così corretto. Rispetti compagno. Le questioni di genere le sono importanti. Di solito sono giuste. Si individua l'autore e ci sto ammazzando. Così la prossima volta non lo fa. Tipo allora, altra cosa, il gusto per l'ermetismo. La frase volutamente ermetica che ci dobbiamo capire fra noi e noi. C'era, per esempio, Luhmann è uno che scrive per non farsi capire. E io ho sempre pensato, e poi c'è Amaleschi, uno che non si vuole far capire. Poi non si vuole far capire. Lasciamo su. Non c'è problema. Ecco, c'era anche il suo rappresentante barese, mi ricordo Eligio Resta, che scriveva in modo assolutamente incomprensibile. O perché c'era questo gusto del... che spesso si ottiene con una singolare mescolanza fra abuso di tecnicismi e abbondanti ambiguità non sciolte. Per cui il risultato finale, tu ti chiedi, ma che cavolo vuoi dire? Oppure quelle cose del tipo stile Macao, no? Quelle cose alla vendola, immaginate. Si potrebbe pensare di voler volare. Che cazzo si dice? Imbecille, che vuoi dire? Cioè, non ha, è bello, suona bene, ma non significa niente. Le hanno perse altrettanto in fretta. Allora, queste cose così, immagini poetiche, questi voli pindarici, il gusto dell'ermetismo, per esempio, tipico di tutti quelli che si occupano di ermeneutica. Cioè, Giannacos chiama ermeneutica, tende un pochino a farti venire un po' di acidità di stomaco, diciamo la verità. Però vabbè, ha le sue origini storiche, eccetera. In mano ai filosofi i giochini di parole tipici della filosofia idealistica. Croce. In cui, beh, no, anche Marx ci giocava, dall'arma della critica alla critica delle armi, no? Cose di questo tipo, giochini di parole, che talvolta sono anche, diciamo, anche utili, e spiega, qualche volta erano un pochino forzati, insomma, un po', no, ma spesso erano non necessari. Quindi, per esempio, anche questo eccesso di quelli che si parlano addosso, con quelli che si pisciano addosso, così, no, non si può fare, ragazzi, è proibito. La frase deve avere una sua evidenza. L'evidenza significa due cose soprattutto: disambiguare ogni qualvolta sia necessario. non usare, limitare il più possibile le polisemie. Questo soprattutto nella concettualizzazione storica, spesso ci sono polisemie. Pensate alla parola borghesia. Borghesia può indicare il popolo dei borghi, delle città, quindi opposto alla campagna. Può indicare il borghese inteso come non soldato, come non militare, e quindi opposto all'idea di militare, di guerriero. Può significare opposto all'idea di proletario, proprietario di mezzo di produzione, eccetera. Spesso non c'è bisogno di stare in quale accezione stai usando questo termine, perché dal contesto della frase si capisce. Però talvolta ci sono delle polisemie che vanno sciolte. Allora, come? Se è possibile usare un termine non polisemico, ma monosemico, è meglio. Se questo non è possibile, è bene che il costrutto sia tale da rendere evidente il suo significato, da scioglierlo. Quando anche questo non sia possibile, va proprio precisato: uso questo termine in questo senso, con una nota o con una parentesi, trovando il modo migliore, più breve per dirlo. Quindi bisogna costantemente disambiguare i termini che possono creare confusione. Secondo, evitare le genericità, cioè non solo il termine, l'espressione può essere polisemica, la frase può prestarsi a più interpretazioni, e lì invece bisogna in qualche modo sciogliere. L'ambiguità è ammessa solo se è voluta. Tu lo stai facendo apposta, perché magari vuoi giocare sulle parole, no? E anche strappare un sorriso al lettore un po' maliziosamente, stai usando una parola a doppio senso in modo da richiamare un significato diverso da quello che potrebbe apparire evidente. Lo puoi fare, ma solo se ne sei consapevole, e se l'ambiguità si scioglie poi, cioè se il tuo uso del doppio termine, del doppio senso, è percepibile dal lettore che non sia almerino, vabbè, non capisci già il senso unico, addirittura il doppio, non si esagera. Però siccome la gente normale arriva a questi giochi di ironia, o cose, l'ironia per esempio è di per sé una forma ambigua, perché sottintende il contrario di quello che scrive. Però si immagina, si spera, un po' di lettori del blog non capiscono mai l'ironia. Vabbè, però altra cosa: individuare e sciogliere tutti i punti di torsione, di tensione logica. Facciamo un esempio. Allora, Dio è un essere infinitamente buono e giusto. Dio è onnipotente. Permettere che verifichi una cosa ingiusta equivale a, potendo impedirla, equivale ad avere la responsabilità morale di quella cosa. Un maremoto colpisce una serie di esseri innocenti come bambini, eccetera eccetera. Allora, come può Dio permettere questo, eccetera eccetera? C'è un punto di torsione: un Dio infinitamente buono e giusto dovrebbe impedire che, ad esempio, un evento naturale colpisca delle persone incolpevoli. Naturalmente i teologi vi daranno almeno 80.000 spiegazioni di questa cosa, vabbè, d'accordo. Ma cosa voglio dire con questa frase? Voglio dire che ci sono delle cose, delle frasi, che nel loro costrutto introducono elementi contraddittori. Ci capita in continuazione. Tu hai affermato che sulla crisi gli Stati Uniti avevano questa politica, ma dici nello stesso tempo che gli interessi degli Stati Uniti sono il fatto che l'euro non crolli. Come metti insieme questo con la tua affermazione che la politica degli Stati Uniti porta al crollo dell'euro? Allora, potrebbe essere detto da un errore della politica americana, potrebbe essere determinato dal fatto che la politica americana ha più facce, per cui c'è chi opera in una direzione e chi in un'altra. Potrebbe invece essere una situazione in cui la politica americana intende ottenere un risultato intermedio, non vuole abbattere l'euro, lo vuole ridimensionare, lo vuole, ecco. Ci sono una serie di contraddizioni. Per esempio, Lamberto mi fece tutto un appunto, un appicco, quando io dicevo certe cose sulla speculazione anti-euro che era partita. Vanno sciolte queste cose. Ah, lui diceva: no, vabbè, la speculazione internazionale, cioè, dicevo, vabbè, ok, ma la speculazione internazionale, che in gran parte sta dalle parti di Wall Street, non è che si muove separatamente dalla politica, cosa che lui proprio non riesce a capire. La politica è in condizioni di limitare, di condizionare l'azione della speculazione e viceversa. Se questo accade è perché, allora, bisogna trovare un punto di composizione di dati apparentemente in contraddizione fra di loro, per cui o uno di quei dati sarà falso, uno di quegli assunti, oppure no, sono tutti veri, ma il modo di farli coesistere è questo. Quindi quando si scrive, se ci sono dei punti contraddittori, delle contraddizioni, punti di tensione del ragionamento, vanno regolarmente individuati e sciolti. Non deve restare la contraddizione irrisolta. E fin qui siamo proprio alle caratteristiche formali, alla pulizia formale del testo. Veniamo invece poi a un piano un po' più complesso, che è quello del modo di esporre. Quando io ero ragazzo, chi di voi ha fatto il classico? Martino, Elio, Christian. Quando io ero ragazzo, in quarta e quinta ginnasio, soprattutto in quinto, c'era un manuale che noi portavamo. Gli altri no, scientifico, cosa no. Dopo aver studiato la parte dell'analisi logica, dopo aver studiato la sintassi, eccetera, eccetera, la grammatica, poi la sintassi, c'era la retorica o la stilistica, e si portava il manuale di stilistica, che invece mi sembra di capire sepolto completamente, malissimo, perché invece è una cosa molto importante che io vi consiglio di studiare. Ne conosce qualcuno anche? Sì, sì, ce ne sono. I dizionari, i dizionari o i manuali, c'erano diversi, si può anche fotocopiare. I manuali di stilistica sono importanti. La stilistica non è una cosa casuale, non è un orpello o una cosa da letterati. Intanto perché noi continuamente facciamo uso di figure retoriche. L'ironia è una figura retorica. Ciro, giù ci sarebbe il box in cui andare a studiare. C'è dell'ironia in questa frase. Il paradosso, noi lo usiamo spessissimo. Oppure per esempio l'endiadi o il chiasmo, per esempio. La contraddizione fra aggettivo e sostantivo, che sottolinea al massimo la contraddizione fra i due termini. Le famose convergenze parallele di Malagodi, non di Moro, attenzione, c'era dell'ironia, ma attenzione, volevano dire, era una composizione di chiasmo e di ironia, per cui Malagodi voleva dire che Moro aveva detto tutto il contrario di tutto, era fumo, perché in realtà non stava in piedi nulla di quello che lui stava dicendo. Sono forme espressive che nel linguaggio comune ci sono sempre. L'iperbole. Quante volte al giorno usiamo l'iperbole? No? ci sono mille errori nel tuo, in questa frase. Beh, se le parole sono 16, come cazzo fanno a stare mille errori? Cioè, è evidente che lì c'è un'iperbole, no? Ora, queste forme, perché un manuale di stilistica è importante? Prima di tutto per avere chiaro il quadro, ma soprattutto per capire una cosa, per capire quando vanno usate, per avere un atteggiamento critico rispetto all'uso di questi strumenti. Non sono strumenti che vanno usati a cazzo di cane, e che è una metafora. Ecco. Sono strumenti che vanno usati con consapevolezza, perché c'è la volta, lo scopo qual è? Nello scrivere noi dobbiamo dare l'immagine più immediatamente percettibile a chi ci legge o ci ascolta, va bene? In qualche caso noi otterremo questo risultato non con un'esposizione piana, ordinata, didascalica, ma magari con il lampo di una figura retorica, per cui lo capisci subito. La figura retorica di volta in volta può essere un'iperbole, può essere un'ironia, può essere un'anafora, può essere... Allora, dire che la Merkel è, che la Germania di oggi è il quarto Reich, no? Beh, è certamente ha dentro una esagerazione, va bene? Però attrae l'attenzione su, ha un giudizio dentro. Monti è il Facta o il Bruning italiano. Cosa vuol dire? Vuol dire c'è dentro un giudizio, cioè Monti sta ripetendo gli errori di Bruning della deflazione di fronte a un periodo recessivo, quello che porta probabilmente a esiti catastrofici. Allora, in qualche caso il richiamare, no? Il paragone, l'evocazione, sono tutti strumenti che servono a rendere immediatamente visibile un certo fenomeno, un certo giudizio. Attenzione al fatto a saperlo usare con molta precisione e con molta cautela, perché per esempio uno dei rischi del linguaggio figurato è la sua suggestività. E lo storico, come qualsiasi scienziato, deve resistere alla tentazione di rendere suggestivo il suo discorso. Il discorso deve essere, convincente o meno, in base al suo rigore logico, non in base all'abilità retorica, dialettica, per cui suggestioni il tuo interlocutore. Uno che gioca tutto sulla suggestività, tanto da non esserci assolutamente un cazzo di merito di discorso, è Vendola. La precarietà, la narrazione, la precarietà del vivere, che significa? È appunto quello che io ebbi a dire di Vendola la prima volta che lo sentì. Come parla bene, ci ha detto. Ecco, fate in modo che nessuno possa dire di voi come scrive bene, che ha detto, cosa che di molti colleghi storici si può dire. Allora, in questo senso l'uso della retorica, della stilistica, può essere un grande ausilio, però attenzione, richiede due cose: molta consapevolezza da parte vostra quando scegliete una figura retorica, molta consapevolezza del lettore, che quindi va messo in grado in qualche modo. Non è che dovete spiegare l'ironia, non dico questo, però che la costruzione della pagina sia tale che si capisce che state ricorrendo a una figura retorica, non state descrivendo un dato di fatto. Una volta Pannella, che polemizzava contro la politica di unità nazionale dai liberali ai comunisti, usava spesso l'espressione l'ammucchiata dei partiti, dei segretari di partiti, eccetera, eccetera. C'era un compagno radicale a Bari che era tanto una brava persona, molto simpatica. Diciamo che la natura era stata piuttosto avara con lui in termini di prontezza, ecco, il quale tendeva a interpretare tutto alla lettera, e un giorno se ne uscì col fatto di pensare veramente che i segretari di partito si riunissero per fare una mucchiata. Cioè, ecco, che il lettore non sarebbe neanche di lontano dalla realtà. 35 anni fa però non si usava, mia madre era un alunno semiautistico che ha questo problema. No, vabbè, se per questo, esatto, allora no, questo è un problema, vabbè, certo, una persona è, però attenzione, molte persone fanno un po' di fatica, e talvolta dipende dal fatto che la tua metafora è occultata così bene, è così, e c'è da trarre un po' in inganno quello che non sia proprio un lettore molto smaliziato. Ora, nel caso di Diego Rossini, che vi ho appena detto, questo radicale, vabbè, è un caso particolare. Mi ricordo una volta ci fu un dibattito sul nucleare e venne non so bene quale responsabile dell'Enel che spiegava il perché la centrale di Montalto di Castro non era pericolosa, e a dire di quanto poco fosse pericolosa, pensate che nel lago ci sono anche le papere che sono morte. Insorge, dico così, le pepere, chi ha messo le pepere? Cioè, capisci, un personaggio così crea qualche problema. Ecco, ma a meno di personaggi di questo tipo si può fare il discorso del tipo giocato su una certa, ecco, dalla chiarezza adesso stiamo passando all'eleganza formale. L'eleganza cos'è? Se abbiamo detto è elegante la dimostrazione che impiega meno passaggi, è altrettanto elegante l'esposizione che consente la percezione più immediata. Non si scrive per far vedere quanto siamo colti, istruiti, eruditi, come fa il mio amico Luciano Canfora, che è specializzato in termini, sì, desueti, del tipo tanghero. Beh, anche quello Sapelli, Tanghero lo uso anche io ironicamente. No, Sapelli lui lo usa esagerà. Proprio. Sapelli ha usato tipo atopo. Sì, ecco. Questo gusto della parola ricercata. Sì, la parola ricercata, attenzione, anche quella non va scartata. Va usata quando questo sia utile, quando questo scolpisca un te meglio di qualsiasi altro termine. Quando può, per esempio, evocare un effetto ironico, ma non va usata a ogni piede spinto, cioè soprattutto il termine desueto. Io sono dell'idea che vanno difesi i termini ceduli, non quelli desueti, è una finezza. I termini desueti sono quelli che ormai non si usano più. Non credo che nessuno di noi userebbe normalmente la parola pria per dire prima, a meno che non lo usi come scherzo, Ci sono però parole cedule, cioè parole che tendono a essere, questo sempre più in italiano, per effetto degli sms, per effetto della televisione, per effetto dell'inglese, cioè, e per effetto, purtroppo bisogna dire, della scuola. Questa è una cosa su cui non si riflette mai. La scuola è un formidabile appiattitore culturale, anche perché i docenti spesso non sono esattamente quello che dovrebbero essere. Il risultato è che si tende a comprimere proprio la ricchezza flessiva di una lingua. Allora, per esempio, una serie di termini stanno lì per cadere in desuetudine. Ecco, il termine cedulo possibilmente va difeso per difendere la ricchezza di una lingua, la sua capacità espositiva. Il termine desueto ovviamente no, desueto lo puoi usare solo per ironia. Ecco, per esempio, questa è una cosa che fanno alcuni intellettuali che, per far vedere quanto sono colti ed eruditi, infarciscono i loro discorsi di termini desueti, di citazioni, nel caso di Luciano, di citazioni greche o latine talvolta superflue, di inutili tecnicismi. Ecco, questo è una cosa per far vedere quanto studiato sono gli intellettuali che io definisco, con l'espressione napoletana, come me pesa sta capa uè. Ecco, non vanno presi sul serio mai. E beh, perché lui è napoletano e sa che significa questa frase. Ecco. No, evitiamo queste cose. Però ciò non di meno si può essere eleganti, si può in qualche modo rendere, non suggestivo, non è quello che va fatto, rendere più immediatamente percepibile quello che possiamo dire, che vogliamo dire, con un'immagine, talvolta un'ellissi. Ecco, l'ellissi è una delle forme della stilistica da usare con maggiore perizia. L'ellissi che sopprime un termine del discorso, ma te lo fa paradossalmente, proprio che lo sopprime, te lo richiama la mente con più efficacia, è una cosa che talvolta ha una capacità comunicativa molto forte. Non può diventare uno che, per esempio, usava molto l'ellissi era Ingrao, altro politico, altro poeta prestato alla politica, che può, però la poesia non si è pigliata più indietro, e il guaio è che è rimasta in politica, e lui anche in politica nei discorsi talvolta usava l'ellissi, col risultato già di per sé l'uomo non stava messo bene, perché tendeva a essere piuttosto astratto e fumoso. Se poi l'esposizione del fumo che aveva in testa era ancora più così, voi potete capire quale fosse l'efficacia del suo discorso. Infatti, vero padre di Michi Vendola, Ingrao. Quello. Ora, l'ellissi, per esempio, è una cosa con un bisturi e con molta parsimonia. Però qualche volta è maledettamente efficace. Allora, anche per questo io vi dico, io ve lo consiglio per imparare a scrivere, studiare un po' di retorica e di stilistica non è male. Poi ci sono alcune cose proprio da evitare, alcuni inestetismi, per esempio evitate di ripetere la stessa parola a distanza troppo ravvicinata. Cercate di usare sinonimi, pronomi, riferimenti, insomma, non attenuate la precisione, però la parola libro non si può usare 7 volte in 11 righe. Questa è una trascuratezza che, per esempio, ecco, De Felice faceva spesso. Quello è un altro che sì, si capiva, però era irritante, era una cosa un po' così, era una sciatteria. Ecco, queste sciatterie vanno evitate, cioè proprio questi inestetismi. Oppure, per esempio, espressioni che abbassano il discorso, espressioni volgari. Per volgari intendo proprio truismi, intendo proprio cose. Stai facendo un discorso scientifico, essere chiari va bene, ma il bar dello sport è un'altra cosa, insomma, eh? Cioè, quindi evitare considerazioni banali, evitare di abbassare il tono del discorso, questi sono inestetismi che vanno regolarmente ripuliti. Mantenere sempre la precisione. Allora, fin qui siamo al secondo livello. Veniamo al terzo e ultimo livello, che è quello più complicato di tutti, che è la nominazione. Cioè, cosa voglio dire? E vedete, abbiamo detto all'inizio che il mestiere dello storico è quello di concettualizzare, di produrre concetti, perché il sapere si trasmette per concetti. Io dico tedeschi, tutti quanti capite più o meno che mi sto riferendo ai cittadini della Repubblica Federale Tedesca o alle persone di nazionalità tedesca, le cose non sempre coincidono, magari ecco un caso di una polisemia, nel contesto del discorso si capirà se sto parlando dei cittadini della Germania, se sto parlando del governo tedesco, delle istituzioni tedesche, se sto parlando dei germanofoni che magari stanno anche in Cecoslovacchia, in Polonia, in Russia e così via. E però in ogni caso io sto usando, se volete, un concetto. In questo caso trattasi di un nome collettivo. Non è che ogni volta posso fare l'elenco nominativo di tutti i tedeschi, anzi normalmente si evita di farlo, no? Se dico comunisti intendo magari gli iscritti al Partito Comunista, non faccio l'elenco di tutti gli appartenenti al Partito Comunista, va bene? Nel caso di altre formazioni come Rifondazione posso fare, tanto sono una XIPEC che fa sciolto, quindi non c'è problema. Allora, ecco, che cosa significa creare concetti? Beh, ci sono concetti che, va bene, ovviamente appartengono a nostre, se dico tedeschi, se dico comunisti, se dico utensili, dove mi riferisco astrattamente a una quantità di oggetti, martelli, pinze, eccetera, eccetera, che hanno una loro funzione, che appunto è l'utilinseria. Altri concetti non appartengono, stessa cosa agli animali, eccetera. Altri concetti, il nomenclare, non è proprio così banale. Ad esempio, beh, nella nostra esperienza quotidiana basterà dire orchidea. Ho regalato 3 orchidee blu. Ma un esperto di floricoltura non dirà mai orchidee, dirà sempre il particolare tipo di orchidea, la, adesso mi viene in mente il termine scientifico, ma sapete che ci sono ugualmente. Io posso dire cani, magari se sono uno che ama i cani dirò spinoni, ma uno studioso dei cani probabilmente lo dirà col termine scientifico, e perché magari anche gli spinoni non sono per tutto, sì, sono una famiglia però suddivisa al suo interno, e quindi occorre essere ancora più precisi. Come vedete, il nomenclare, man mano che il discorso diventa scientifico, richiede ulteriori specificazioni, ulteriori precisazioni. Io finora vi ho fatto l'esempio di cose esistenti, cani, piante, e già questo in qualche modo pone qualche problema, perché ovviamente non è che la particolare razza di cocker c'ha il cartellino in natura sopra, questo è un cocker di, no, è un nome che diamo noi, che raggruppiamo certo tipo di animali aventi certe caratteristiche, eccetera eccetera. Ecco, l'operazione è ancora più complicata se, anziché riferirci a oggetti effettivamente esistenti e dove una verifica empirica può risolvere il problema, definiamo come appartenenti alla specie del pastore maremmano tutti i cani aventi queste caratteristiche morfologiche e questo DNA. Dopodiché lo vedi, no? Fai tutte le prove possibili e immaginabili e vedi quelli appartengono, quelli non appartengono, hai delimitato un campo. Se invece si ha a che fare con concetti astratti, cioè non di oggetti presenti in natura, ma per esempio il concetto di eguaglianza, il concetto di libertà, e dove dentro voi capite che ci sono molti possibili significati, e peggio ancora se io, oppure per esempio, già spostandoci a un livello un po' più complesso, Repubblica Presidenziale. Sì, effettivamente esistono una serie di apparati statali con delle costituzioni che più o meno descrivono un ordinamento di tipo presidenziale, ma già cominceremo a discutere. Presidenziale che significa? Solo il fatto che il presidente è eletto direttamente dal popolo, il capo dello Stato? In questo caso la Francia è un regime pienamente presidenziale. Per altri invece dice no, guarda che la differenza sta nel fatto che il presidente capo dello Stato è anche capo del governo. Coincidono le due cariche, hai l'investitura diretta e quella della Repubblica Presidenziale. In quel caso gli Stati Uniti sono un esempio puro di presidenziale, come gran parte delle repubbliche sudamericane, non la Francia, dove la carica di presidente, di capo del governo, è distinta da quella di capo dello Stato, pur essendo il capo dello Stato eletto direttamente dal popolo. Quindi cominceremo a distinguere. L'Austria cos'è? Anche lì è una cosa molto simile alla Francia, però mentre la Francia ha un sistema politico complessivo che funziona intorno al presidente, per cui si parla di regime semipresidenziale, o alcuni addirittura parlano di regime presidenziale rafforzato, perché il presidente assume su di sé una serie di poteri, in Austria i poteri del presidente sono piuttosto limitati. E quindi in realtà l'Austria, nonostante il presidente sia eletto dal popolo, viene ritenuta una repubblica parlamentare. In Irlanda abbiamo un capo dello Stato che ha molti poteri sulla carta, però sono poteri dormienti, nel senso che nella prassi il capo dello Stato irlandese tende a non utilizzare se non una parte piuttosto modesta dei suoi poteri. Anche lì abbiamo una repubblica che non può dirsi presidenziale. Allora, nel descrivere questa tipologia, noi stiamo facendo una nomenclatura che ha molte eccezioni e sottoeccezioni, perché il fenomeno è complesso, cioè dobbiamo vedere l'identità fra carica di capo dello Stato e capo del governo, i poteri che ha, il meccanismo elettorale, cioè dobbiamo vedere una serie, la prassi consuetudinaria, una serie di cose a incrocio che ci permettono di ascrivere grosso modo un particolare sistema politico istituzionale in una categoria piuttosto che un'altra. Se poi addirittura dobbiamo individuare processi storici, è ancora più incasinato, perché i processi storici sono la risultante molto complessa di una serie di fattori politici, economici, giuridici, sociali, culturali, militari, tale per cui è piuttosto complicato. Allora, per esempio, veniamo a una cosa, e talvolta questo crea una serie di, diciamo, di dissensi, di dibattiti, spesso non del tutto in buona fede, e che però hanno a che fare. Prendiamo per esempio la categoria di doppio Stato, su cui c'è stata una polemica abbastanza forte che mi ha un po' anche coinvolto. Allora, il termine doppio Stato viene coniato per la prima volta da Frankl, che era un autore tedesco socialdemocratico scappato dalla Germania, che nel 1942 cerca di spiegare, per la verità, agli americani, poi la cosa viene tradotta, cos'era, che strano animale era il nazismo. E lui dice: guardate, il nazismo, il problema del nazismo qual è? Che è un doppio stato, è come se ci fossero due stati uno dentro all'altro. C'è un nucleo che è quello dello stato del diritto privato, dove ci sono tribunali, c'è un codice di diritto commerciale, ci sono delle consuetudini, delle cose che mantiene caratteristiche nomologiche e razionali, cioè è uno stato che ha delle regole, delle leggi, nomos, e le applica in modo razionale. Questo però è all'interno di un involucro, dice lui, di diritto pubblico che invece non è logico, ma è volontaristico, è fondato sull'idea di potenza, è arbitrario, non è razionale, non ha una costituzione, è tutto basato sul volere, sul Führerprinzip. E quindi non è che c'è un unico stato che però in realtà ha questa doppia manifestazione. Il termine viene poi ripreso da Barash e Balanz, due politologi americani, uno di origine ungherese, che invece lo riferiscono ad altro tipo di manifestazioni. Un'altra interpretazione è quella data da Ritter, il volto demoniaco del potere, per cui la dialettica del doppio stato è un po' quella fra il volto e la maschera. C'è una maschera legale, razionale, cioè poi c'è un volto che è il volto demoniaco del potere, che per sua natura non è normabile veramente fino in fondo. Poi c'è Wolf, per la verità fa una cosa più descrittiva che altro, perché dice: ah, doppio stato può essere uno stato che è democratico al suo interno ma non nelle relazioni internazionali, gli Stati Uniti, che sono democratici all'interno ma imperialisti fuori, oppure per esempio possono trattare in modo differenziato i cittadini, eccetera eccetera eccetera. Comuni a tutte queste cose molto diverse fra di loro c'è comunque l'idea, non tanto che il doppio, le polemiche che ci sono state riflettono molto spesso il livello di ignoranza italiana del termine. Per esempio Gotor, in un suo libro, nel primo libro, polemizza con quello che io scrivo, non avendo letto assolutamente niente del mio libro, perché in realtà lo stato parallelo, tra l'altro non fu una scelta mia il titolo, fu una scelta dell'editore, che secondo lui lo stato duale o il doppio stato era troppo raffinato. Dove stato duale è un'altra cosa ancora, è quello di cui parla Fischer a proposito dello stato immediatamente pre-rivoluzionario, tardo aristocratico, no? Per cui c'era diversi ordinamenti, gli aristocratici erano processati dagli aristocratici, i ceti popolari, i tre stati sostanzialmente, quindi c'erano diverse sovrapposizioni del termine. Beh, lui, che però non ha letto un rigo di quello che avevo scritto, mi attribuisce due idee che sono il contrario di quello che io sostengo. Primo, il doppio stato sarebbe la presenza di due stati, di due apparati, uno formale esterno democratico e l'altro interno sostanzialmente fascista. Ed è la prima idiozia, perché invece io sostengo che l'apparato statale è uno, il suo modo di funzionare può essere doppio, ma l'apparato è uno. Seconda cosa, lui, richiamando Frenkel, dice, perché in realtà copia da questa cosa, da Scoppola, che a sua volta la copia da De Felice, Franco, non Renzo. Praticamente tu, siccome Frenkel diceva doppio stato della Germania nazista, stai dicendo che l'Italia repubblicana è stata nazismo. Mai detta una cazzata del genere. È una categoria astratta che serve, io nel mio caso la utilizzavo per dire, riprendevo sostanzialmente che cosa? Il concetto di costituzione formale e di costituzione materiale. Altro concetto molto delicato. teorizzato in particolare da alcuni giuristi prima di secolo, da Santi Romano, che poi viene ripreso da Costantino Mortati, per certi versi da Schmitt. Allora, c'è una scuola che è quella formalista di Kelsen, che dice la democrazia è prima di tutto una procedura e la Costituzione è il prevalere della norma scritta, della norma fondamentale, la Grundnorm, che è la Costituzione, punto e basta. C'è chi dice no, prevale non la Costituzione scritta, ma la Costituzione vivente, cioè il come effettivamente i poteri si atteggiano fra di loro. E quindi in realtà c'è una Costituzione materiale, cioè un sistema politico, che prevale sul dato scritto. È quello che porterà, guardate che non è un caso che Costantino Mortati è quello che su questa base teorizzò la legittimità del Gran Consiglio del Fascismo rispetto allo Statuto Albertino, che era una Costituzione flessibile. Lui legalizzò il Consiglio, il Gran Consiglio Fascista, che non era previsto da nessun articolo dello Statuto, pur dicendo continua a vigere lo Statuto, ma come? Nell'interpretazione che ne dà la prassi. Attenzione, Costantino Mortati è lo stesso che poi, diventato deputato costituente nei ranghi della Democrazia Cristiana, è massimo esperto di diritto costituzionale all'Assemblea Costituente della DC, riprenderà questo discorso per dire il perché il sistema dei partiti, pur non previsto dalla Costituzione, però prevale sulla Costituzione. In realtà lui ha sempre pensato la stessa cosa, solo che prima pensava partito al singolare e dopo lo ha pensato al plurale, ma pensava la stessa cosa. Allora, intorno al discorso Costituzione formale, Costituzione materiale, c'è un dibattito lunghissimo, complicato, però in tutta la dottrina costituzionale italiana non ci sarà un solo autore che non ammetterà il fatto che esiste una Costituzione materiale accanto a quella formale. Il problema è chi dei due deve prevalere, qual è il punto di torsione, fino a quale punto può arrivare la torsione del testo formale per adeguarsi alle evoluzioni del sistema politico e dove invece c'è la rottura. Formalmente noi non abbiamo avuto un cambio di Costituzione, ma io sostengo ad esempio che il referendum del 18 aprile del 93 e il maggioritario hanno di fatto provocato una rottura costituzionale e una decostituzionalizzazione del nostro ordinamento. Ecco, vedete, sono una serie di concetti, no, che costituiscono ulteriori concetti, dove ogni cosa, ecco, per esempio, no, Costituzione formale, beh, uno lo capisce abbastanza facilmente. Costituzione materiale, come nasce questo concetto? Nasce, se volete, per processo di scissione, di differenziazione, perché prima c'è la Costituzione. È però il testo scritto della Costituzione formale, quindi c'è qualcosa di non formale. Cos'è? È materiale. Il sistema politico è la Costituzione materiale. Io uso questo concetto per dire, guardate, il doppio Stato italiano è stato fatto così, aveva una Costituzione formale che non discriminava fra partiti, meno che era pregiudiziale antifascista, ma ha avuto una Costituzione materiale che invece era fondata sulla discriminazione anticomunista e semmai qualche volta passava la mano molto leggera su quella antifascista. Quindi, come vedete, allora, di volta in volta, questo è il mestiere che in qualche modo sarete chiamati a fare, a dare un nome alle vostre acquisizioni. Noi, la scienza si produce creando concetti, i concetti hanno bisogno di nomi. Ecco perché scrivere è importante, ecco perché saper scrivere è importante, ecco perché è importantissimo essere consapevoli dell'uso del termine, della potenzialità espressiva del termine, dove di volta in volta ci sarà l'occasione in cui l'individuazione del nome che voi darete sarà per esempio legata a un'origine filologica, al ripensamento del termine, delle sue origini, magari al recupero di un senso originario. In qualche altro caso voi creerete un neologismo, magari combinando due parole, non so, tecnostruttura, dove avete combinato due termini, uno che fa riferimento alle conoscenze tecniche, quindi alla tecnocrazia, l'altro all'idea di struttura dello Stato, quindi una struttura che si caratterizza non più e non tanto per il suo dato amministrativo, quanto per il prevalere di un'anima tecnocratica. È per esempio quello che fanno i sociologi tedeschi, Habermas, gli altri, eccetera, fra gli anni 60 e gli anni 70, quando individuano il termine di tecnostruttura. In qualche caso il termine sarà prodotto. L'infodemocrazia, cos'è? E il richiamo al web, per esempio, no? Al discorso della rete, pensate alla parola rete, che ha cambiato significato totalmente. Prima la rete era quella che modestamente i pescatori utilizzavano, adesso ha tutt'altro significato. E allora, per esempio, una democrazia legata alla rete, e qui ci sono vari tentativi di cognominarla, va bene? In qualche caso vi servirete di una metafora, ad esempio, di una metafora o per esempio della ripresa di un termine storico. Ad esempio, per definire il regime gollista sorto nel 58 con la Quinta Repubblica, carattere presidenziale, eccetera, eccetera, alcuni recuperarono la categoria di bonapartismo per come l'aveva elaborata Marx a proposito del colpo di Stato di Napoleone III nel libro Il 18 Brumaio. In quel caso c'è un precedente storico che ti fornisce una categoria interpretativa che tu applichi magari con un neo davanti, per dire, per esempio, neofascismo. Sono quei particolari. Allora, dare un nome a una cosa non è una cosa che dipende dalla fantasia, oddio, un pizzico di fantasia ci vuole, però attenzione, è una cosa che si fa attraverso procedure tecniche abbastanza precise. Cioè, se tu scegli di ricorrere a un nuovo termine piuttosto che alla radice etimologica del termine, o piuttosto che alla metafora storica, al richiamo, devi essere consapevole di quello che stai facendo. Perché stai scegliendo quella strada piuttosto che quella? Perché pensi che si possa spiegare le tendenze attuali con il termine di bonapartismo? Ad esempio, io sostengo che molti degli elementi di quello che sta accadendo può essere spiegato da questo termine. Perché? Cos'è il bonapartismo? Marx lo descrive in questi termini: nello scontro di classe in atto in Francia, nessuno dei denti, dato che lo scontro di classe ha un carattere triadico, perché non c'è soltanto borghesia e proletariato, c'è l'urto fra città e campagna, cioè è tutto un po' più incasinato, per cui c'è un proletariato, c'è un ceto medio e c'è una borghesia capitalistica, nessuno riesce a prevalere del tutto, soprattutto perché la borghesia, il ceto medio, sbanda fra i due principali attori. E allora che succede? Lo Stato produce un soggetto che si pone al di sopra del conflitto, che è la burocrazia militare, il bonapartismo. Bonaparte è questo, è quello che dice, beh, in qualche modo d'ora in poi si fa, visto che non si riesce a raggiungere una coalizione dominante, beh, vabbè, passiamo appunto dall'arma della critica alla critica delle armi, e si fa così. Quindi c'è questa dimensione, nel caso di Marx, fortemente autoritaria, molto sottolineata, cioè, In realtà il discorso qual è? È l'autonomizzazione degli apparati statali dalla committenza della società civile, per cui assumono, sia pure in una sintonia particolare con qualcuna delle classi, ma assumono una propria autonomia. Marx pensava che questo fosse un fenomeno di breve periodo. In realtà, per esempio, Trotsky utilizza molto il termine di bonapartismo riferendolo allo stalinismo. Io credo che alcune cose di quelle che sono successe in Italia, ma più in generale, possano essere spiegate in termini di bonapartismo. Ad esempio, l'uso, la polemica sul ruolo politico della magistratura, da Mani Pulite in poi, che viene descritto come le toghe rosse. Toghe rosse è una cosa che banalizza maledettamente il discorso, anche perché poi tanto rossi non sono. E soprattutto, fino a un certo punto, sono in sintonia con lo schieramento politico. Il più delle volte la magistratura ha rivendicato un potere autonomo. Io in quel caso parlerei piuttosto di bonapartismo giudiziario, come tentativo di un corpo dello Stato di ergersi come strumento di governo, governo dei giudici. Per certi versi, a livello internazionale, possiamo parlare di bonapartismo informativo parlando dei servizi segreti. Servizi segreti che si sottraggono al controllo dell'autorità politica, anzi addirittura attraverso la manipolazione informativa dirigono loro, orientano loro l'azione del politico, no? Quindi in qualche modo esprimono un protagonismo in prima persona, una capacità di un loro atteggiarsi a stato maggiore del patto fra la spada e la moneta. Ecco, sono dei casi in cui si può utilizzare questa categoria, ma forse se ne potrebbero utilizzare anche altre. Io volutamente ho richiamato la categoria di bonapartismo per alcuni tratti dell'analisi marxiana e per sottolineare questo particolare aspetto dell'autonomizzazione corporativa di uno o più organismi dello Stato che assume a una dimensione politica che non gli competerebbe, diciamo così. Ecco, in questo processo di nominazione del fenomeno, in questo caso io ho preferito questo tipo di struttura di termine. Pensiamo invece ad altre cose, e pensiamo alla categoria di modernizzazione, che è una categoria principe con la quale la sociologia e la politologia hanno letto gli ultimi 60 anni, o meglio, negli ultimi 60 anni hanno letto tutto il passato storico precedente. Gli storici non amano tanto la categoria della modernizzazione, oppure, cosa più colpevole, la usano indiscriminatamente e in modo piuttosto inconsapevole. È una specie di luogo comune. La modernizzazione. Craxi tentò una modernizzazione del nostro paese. Altri diranno non è vero, eccetera. Lanaro parla di una modernizzazione mancata o per la quale sono pagati prezzi eccessivi in Italia, nella sua storia dell'Italia repubblicana. La parola modernizzazione è usata nel senso comune, corrente del termine, senza eccessiva riflessione sui suoi contenuti. Eppure, attenzione, la parola modernizzazione appare piuttosto tardi. Prima c'è un altro termine, che è quello di modernità, che è un po' diverso, che è un termine che comincia da Petrarca e arriva a tutto l'Ottocento e a buona parte del Novecento. Ancora Weber, se non sbaglio, non parla di modernizzazione, parla di modernità. Il termine modernizzazione viene coniato dalla sociologia americana negli anni tardi anni 40-50, Talcott Parsons, eccetera, Eaton. In realtà modernizzazione contiene in sé un giudizio politico molto più rigido, molto più... si dà l'idea di un processo che ha una sua necessarietà interna, irrigidisce molto il concetto storico di quello che è successo, e infatti sarà la cosa su cui verrà criticata dai sociologi della storia come Barrington Moore, per esempio, o da politologi come Rockan e così via. Oggi noi abbiamo di fronte un concetto atto per sicuro, scontato, addirittura usato come termine di linguaggio corrente, che non spiega più niente. Se provi a capire quello che sta succedendo in Cina col termine di modernizzazione, non capisci un accidenti. Non sto adesso a riaprire il discorso che è stato oggetto del mio corso, che poi è stato un po' ripreso nel confronto con Martinelli. In realtà, per esempio, questo è il caso di una categoria che va decostruita. Una categoria che ho usato molto anche io e che invece oggi mi lascia molto perplesso. Modernizzazione noi la presentiamo come un processo organico in cui le parti economiche, tecnologiche, politiche, culturali, demografiche si intrecciano e si presuppongono a vicenda. Tant'è vero che a un certo punto abbiamo cominciato a parlare di modernizzazioni parziali o imperfette, nel caso del nazismo o dello stalinismo, perché pur realizzando sviluppo economico magari e tecnologico non si sono accompagnati a democrazia. E che modernità è? E il fatto è che forse questi elementi non erano in rapporto necessario fra di loro come noi li avevamo immaginati. Non solo, ma la categoria di modernizzazione in realtà spiega una epopea unica, che è quella europea, perché l'Europa ha avuto la ventura di avere un processo storico straordinariamente compatto dal punto di vista temporale e spaziale, cosa che non si è data in altri contesti, lasciamo stare il Nord America, per certi versi anche in Sud America in qualche modo fanno piazza pulita degli abitanti precedenti, quindi, ma che in Africa e in Asia non si è dato, perlomeno non in questi termini. Ed ecco che il concetto di modernizzazione diventa un'arma spuntata quando vuoi capire certi contesti così diversi da quello europeo. È un esempio appunto di come può avere successo una determinata cognominazione, ma a un certo punto diventare una specie di trappola culturale che occorre rivedere. D'altronde, uno dei motivi per cui la storia non è mai scritta una volta per tutte, come abbiamo detto, è anche il fatto che è scritta per concetti e nulla è eterno, tantomeno i concetti. Allora, per adesso io mi fermerei qui, cercando di avervi dato una panoramica dei vari livelli del come scrivere. Poi magari a settembre prenderemo il discorso cercando di fare un'altra cosa, cercando di fare una serie di incontri sulle domande del presente. Cioè, cos'è il presente e quali sono le domande storiche da cui viene fuori di che storia dobbiamo parlare? Quello poi lo vedremo. Per adesso io mi fermerei qui, anche perché sono 2 ore che parlo. Sì. Mi affido... Volete aggrapparvi a una stecca di ghiaccio o qualcosa per riprendervi? No, adesso, non cominciare! Anch'io già fatto. Ma sono le 6! Ma fa caldo! E il fa caldo fa passare la fame? No, invece no. Me, me l'amplifica. C'è molto effetto che faccia a te un caldo. Riavetevi. Rivio. No, questa cosa qui della concettualizzazione è quella che a me mi ti agita. Non so se mi agita, però mi preoccupa o comunque. Cioè, è vero che poi tu non è che arrivi, devi inventare nulla. Tra l'altro io mi chiedevo questo fatto della concettualizzazione. Che livello del discorso deve coprire? Cioè, se tu concettualizzi qualcosa che vale per tutto il tuo discorso, o se cioè ad ogni peso spinto devi stare lì a concettualizzare nuove cose. No, vabbè, si fa quando deve essere fatto. No, cioè nel senso mi viene io che comunque tu puoi concettualizzare anche nel contesto di un articolo, la concettualizzazione nel contesto di un saggio, è anche nel contesto di un volume. Dipende. Beh, sai, non è detto che tu debba farlo sempre. Dove sono i piatti? Qua. Ah, ecco, datemene qualcuno. Ma insomma, dipende anche da che stai scrivendo. Se stai scrivendo un saggio su Piazza Fontana in cui tendi a cercare di dimostrare che sono stati fascisti o che la magistratura non ha saputo indagare perché, ma probabilmente non avrai un problema di cognominazione. Tutto questo, ci sono idee già, strategia della tensione, doppio stato, strage di stato, eccetera, ad esempio, sono già delle categorie in qualche modo presenti e non c'è particolare bisogno di andarle a sostituire, o perlomeno diciamo, se devi dire certe cose non è necessario rimetterle in discussione e subito. Mi è caduto l'occhio. Ti pareva. Se invece stai facendo un saggio su gli intellettuali cinesi e la modernizzazione, e allora devi entrare in me, poi non sempre dovrai tu creare determinare il termine per un concetto, talvolta potrai semplicemente decostruire un esistente. Quindi dipende da che stai facendo, non è una cosa fissa, diciamo che questo progetto di concettualizzazione è relativo più al programma scientifico di una persona che non al singolo lavoro. No, mi viene da pensare, però si può contribuire ad un determinato settore di letteratura scientifica senza concettualizzare? Beh, no, in assoluto no. Cioè, nel senso, è necessario comunque, quando tu vuoi dare un contributo, devi dare un concetto nuovo. Beh, insomma, dipende dal livello, perché difficilmente un giovane inizia in fisica da teoria generale della fisica. L'esperimento piuttosto limitato e decostruirà una cosa per sé o segnalerà una fenomenologia ancora da spiegare, eccetera. Poi man mano cresce questa cosa. Anche la processo di concettualizzazione non necessariamente è le grandi categorie, può anche essere la precisazione rivoluzione criminale, però dentro ci sono tante cose, per esempio la distinzione empirica, se vuoi, fra mafie e criminalità organizzata. Le mafie a loro volta potrei distinguere fra mafie territoriali e mafie invece nomadi e così via, cioè man mano precisando i concetti. Mafie originarie e mafie derivate. Cosa nostra americana non è una mafia originaria, è una mafia derivata. E allora tu come giudicare il trapianto della camorra, dell'andrangheta al nord? È una mafia derivata? È in realtà semplicemente uno spostamento geografico? Cioè, di volta in volta poi ai livelli più bassi, insomma, non è. L'importante è una cosa, che si capisca perché stai scrivendo una cosa. Qual è lo scopo? Perché vorrei un posto di ricercatore, fatemelo vincere, vabbè, ma non è quello che in sede scientifica rileva. Il mio concetto di fame era quindi... ho notato. Vabbè, ma poi il problema è quando c'hai davanti. Ma invece i compiti per le vacanze in cosa consisteranno? I compiti per le vacanze in cosa consisteranno? Beh, ma... insomma, dobbiamo cominciare a parlare del giornale di storia, che secondo me possiamo, ma se la bevi adesso dopo che c'è? L'acqua. Come vuoi. Beh, ci stanno questi crostini ottimi e stuzziganti. Il giornale di storia secondo me dobbiamo fare in due tappe. Prima facciamo la tappa italiana, i dossier italiani, poi man mano internazionali. No, invece volevo chiedere un'altra roba, che esula un po' dal tema di oggi. Erano due o tre titoli di autori che citavi l'altra volta, di storicismo e... perché beh, il libro di Foote ce l'ho. C'ho diverse cose che io alcuni vecchi classici ve li consiglio. Il metodo storico di Chabot, vecchio di 70 anni, li porta bene i suoi 70 anni. Per esempio di Chabot è molto bello anche un altro libro a proposito di concettualizzazione, il libro sulle nazioni, a parte la storia d'Europa, proprio sul concetto di nazione. Lui fa tutto un discorso di differenziazione tra l'italiano e quello tedesco. Sono tutta una serie di cose che... No, cioè, beh, c'è ovviamente figosi. Fra i classici Bloch, che resta l'apologia della storia, resta un testo da studiare. L'unica cosa positiva dell'esame di didattica della storia, dei passi della storia. No, quelli sono libri che meritano. A suo tempo La conoscenza storica di Marrou, che era però l'esistenzialismo cattolico. Io ce l'ho quello. Quello è un libro interessante. E invece Chesnu si dice. Chesnu. Storia del Vietnam. No, che cos'è la storia? Sì, è lo stesso autore. Però lui è vero militante. Sì, e beh, lui era marxista. Uno dei difensori del Vietnam. Era uno storico del Vietnam, ma poi lo fa in modo militante. Nei tempi più moderni c'è meno. Beh, ci sono alcune cose della scuola Popper-Hempel, che in Italia ha come riferimento Antiseri, Sergio Antiseri, e c'è un libro della Rubettino che si intitola Tucidide come Einstein, mi pare, di cui non ricordo bene il nome dell'autore. Su Hempel c'è Come lavora lo storico di Hempel, con lunga prefazione di Antiseri. Però devo dire onestamente una cosa, caratteristica degli storici, dei metodologi storici di scuola popperiano-hempeliana, è di non aver mai scritto una storia. cioè ti fanno un lunghissimo discorso sulle leggi di copertura, le cose, cioè per carità impeccabile, però poi come cazzo si applica non lo sai. Beh, sulla questione di modernità è quello che dice Guizot, che riprende anche Chabot sulla civiltà europea, è emblematico, no? Cioè lui quando fa tutto il discorso anche sul progresso. Beh, un libro interessante su questo, bello, è il libro di Huizinga, si scrive Huizinga, Autunno del Medioevo, che è un grande libro perché lui spiega come c'è un passaggio di civiltà che però non ha le caratteristiche tanto del disastro, anzi l'autunno del Medioevo è un autunno opulento, è un autunno ricco di luci autunnali ottobrine, non da novembre, cioè quindi con una campagna rigogliosa molto colorata. È un'idea di Huizinga, c'è anche grande per capire poi come lo storico capisce il presente, Sangue d'Europa. Huizinga è un olandese che muore, però credo di morte naturale, anche perché aveva pure la sua età, durante l'occupazione nazista, credo nel 45, cioè proprio alla fine, 44, quelle parti là, non mi ricordo bene. Beh, Huizinga è altra cosa molto meritevole da leggere. Ma invece, De Fusco si chiamano? Sì, De Fusco è storia dell'idea di storia, della guida di Napoli, se non sbaglio. Tra l'altro, l'altro giorno ce l'avevo, potrebbe essere, è un libro vecchio quello. È un libro di 15 anni fa tutti quanti. Bisognerebbe capire se lui è vivo e se si potrebbe ripubblicare in qualche modo. Sempre vivo dovrebbe essere, perché che ci avrà 74-75. Io mi ricordo che gli hai sempre detto come... No, quello è una cosa molto utile. Ma invece Aldo, domanda magari banale, però legato un po' a tutto questo discorso sul come scrivere, sulla anche legato ad introdurre nuove concettualizzazioni e così via. Ma noi quando ad esempio scriviamo, nel caso della produzione storica... Io spero che voi scriviate. Sì, tendenzialmente. Ma la domanda è a chi ci rivolgiamo? Cioè, facciamo produzioni sempre per un unico pubblico, per diversi livelli? È ovvio che hai livelli diversi. Una cosa è che tu scrivi su una rivista di storia specializzata che ha 300 abbonamenti nelle biblioteche universitarie e stai scrivendo per i tuoi colleghi che non ti leggeranno perché non leggono, e quindi leggerai tu 3 del comitato di redazione, altri 5 probabilmente, ma comunque, e lì devi far finta di rivolgerti alla comunità scientifica. Un conto è se il libro, anche il libro dipende molto, dipende, sei anche forzato, perché per esempio se scrivi per Rubettino, Rubettino vuole l'opera scientifica possibilmente adottata, comunque destinata a un pubblico universitario, ma se vai dal Ponte alle Grazie, da Mondadori, da Rizzoli, no, quelli vogliono il libro che si deve vendere in libreria, che possa essere letto anche dal lettore comune. Intermedie possono essere la Terza e il Mulino, che vivono molto di contributi pubblici o dei soldi che gli danno gli autori stessi per pubblicare, e allora qualche modo mantengono un livello a metà, si rivolgono a un pubblico specialistico, però insomma comunque vanno in libreria. Dipende, se stai scrivendo un articolo per un quotidiano, per un settimanale, eccetera, è diverso dal se stai scrivendo per un sito specializzato, cioè ci sono vari piani di lettura, e di volta in volta è ovvio che se la tua è un'opera divulgativa, i tecnicismi non li devi evitare, ma li devi spiegare, eccetera. Se stai scrivendo per i tuoi colleghi, si suppone che i termini specialistici li conoscano, e comunque nessuno ti dirà niente, perché anche se non li conoscono faranno finta di conoscerli per non fare la figura di... Quindi è diverso. In generale io sono dell'idea che è meglio scrivere per un pubblico, ecco, non dico per la gente, non dico per la signora Maria, che tanto legge il ricettario, ed è giusto che legge il ricettario, libro suo. No, io valorizzo il talento. Quella sa fare le crostate, dai, le cose, le crostate. Cioè, vedi, quando non si valorizza il talento, poi si fa la Merkel. Kent faceva dei bucati, e invece io sono dell'idea che non proprio per la signora Maria di Voghera, ma è bene scrivere per un pubblico colto. Cioè, io la cifra che preferisco è quella del pubblico colto, del professore di storia di liceo, per dirti, o del consumatore di libro di storia per passione, che secondo me è già un livello talvolta non affatto inferiore a quella del ricercatore universitario, che spesso è uno che sa solo la cosa sua, cioè Tumblr, il resto è un universo sconosciuto e meraviglioso. Quindi, no, l'idea che ho io è che si può, certo devi differenziare, ma guarda che questo poi, cioè, è anche l'ambito in cui scrivi che ti spinge in una direzione o l'altra, che ti chiederà per esempio l'editore, dice no, piace termini troppo specialistici, spiega co. Tutte le volte faccio una cosa per contare grazie. Quando mi ha dato meno fastidio? Io sono soffregato con... Sì, quando? Giovani, pimpate. Io sarei contento se ciascuno di voi si pigliasse la responsabilità, ma questa volta farcelo sul serio, di farmi un dossier per settembre-ottobre per il sito di storia, scegliendo un argomento magari non infinito, non immenso, però insomma una cosa da fare, Aspetta che chiudo l'esperienza.